Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Più penoso per lo spirito umano, dopo i sentimenti provocati da una rapida successione di eventi, della mortale calma dell'inazione e della conseguente certezza che nega all'animo sia la speranza che la paura. Justine era morta, riposava, e io ero vivo. Il sangue scorreva liberamente nelle mie vene, ma sul mio cuore gravava un peso di disperazione e di rimorso che nulla valeva ad alleviare. I miei occhi non conobbero più il sonno. Vagavo come uno spirito dannato, perché avevo perpetrato misfatti orrendi e indicibili, e perché altri ancora, ne ero certo, me ne riservava l'avvenire. Eppure il mio cuore traboccava di gentilezza e di amore per la virtù. Avevo cominciato la vita con le migliori intenzioni e avevo atteso con ansia il momento in cui avrei potuto metterle in pratica e rendermi utile al mio prossimo. Ora tutto era distrutto, invece di possedere quella serenità di coscienza che mi avrebbe permesso di guardare al passato con intima soddisfazione e di trarne auspici di nuove speranze. Ero inseguito da rimorsi e senso di colpa che mi sospingevano in un inferno di indescrivibili torture. Tale stato d'animo minava la mia salute, che forse non si era rimessa completamente dal primo colpo. Evitavo la vista degli uomini. Ogni accenno a gioie e a soddisfazioni era una tortura per me. Mia unica consolazione era la solitudine, una solitudine profonda, cupa, simile alla morte. Mio padre osservava addolorato il visibile mutamento del mio umore e delle mie abitudini, e con argomenti che si ispiravano alla sua coscienza tranquilla e alla sua vita senza colpe, si sforzava di farmi forza e di risvegliare in me il coraggio di dissipare le cupe nuvole che mi opprimevano. «Credi, Victor, che anch'io non soffra?» disse. «Nessuno avrebbe potuto amare un fanciullo più di quanto io amavo tuo fratello». E a queste parole gli occhi gli si riempirono di lacrime. «Ma non è forse un dovere verso chi sopravvive astenersi dall'accrescerne l'infelicità con manifestazioni di dolore eccessivo? È anche un dovere verso noi stessi, perché un simile dolore impedisce ogni progresso o piacere, perfino l'adempimento di quel dovere quotidiano, senza cui l'uomo non è degno di vivere nella società». Il consiglio, per quanto buono, non era applicabile al mio caso. Sarei stato il primo a nascondere il mio dolore e a consolare i miei cari, se il rimorso non avesse mescolato la sua amarezza, il terrore e la sua ansia alle altre mie sensazioni. Potei rispondere quindi a mio padre solo con uno sguardo di disperazione. Poi feci di tutto per nascondermi alla sua vista. All'incirca in quel periodo ci ritirammo nella nostra casa a Belrive. Questo cambiamento mi riuscì particolarmente gradito. Le porte della città si chiudevano di regola alle 10 e l'impossibilità di rimanere sul lago dopo quell'ora mi aveva reso particolarmente sgradevole il soggiorno fra le mura di Ginevra. Ora ero libero. Spesso, dopo che il resto della famiglia si era ritirato per la notte, prendevo una barca e passavo molte ore al largo. A volte drizzavo la vela e mi lasciavo trasportare dal vento, a volte, dopo aver remato fino al centro del lago, lasciavo che la barca andasse alla deriva e mi abbandonavo alle mie tristi riflessioni. Spesso, quando tutto attorno a me era pace ed ero l'unico essere che vagasse inquieto in uno scenario così bello e paradisiaco, con l'eccezione di qualche pipistrello e delle rane il cui gracidio aspro e intermittente si udiva solo allorché ci si avvicinava alla riva. Spesso, dicevo, ero tentato di gettarmi nel lago silenzioso e lasciare che le acque si chiudessero per sempre su di me e sulle mie sciagure. Ma mi tratteneva il pensiero dell'eroica e addolorata Elizabeth, che amavo teneramente e la cui esistenza era legata alla mia. Anche a mio padre pensavo e al fratello che rimaneva. Con il mio vile abbandono potevo forse lasciarli esposti senza protezione alla malvagità del demone che avevo scatenato. In quei momenti piangevo amaramente e desideravo che la pace potesse tornare nel mio animo, solo per poter dare loro consolazione e felicità. Ma ciò non sarebbe mai accaduto. Il rimorso uccideva ogni speranza. Io ero stato l'autore di mali irreparabili e vivevo giornalmente nel terrore che il mostro, da me creato, potesse perpetrare qualche nuova atrocità. Avevo un oscuro presentimento che non fosse tutto finito, che quell'essere avrebbe commesso un nuovo crimine, il quale, con la sua enormità, avrebbe oscurato il precedente. C'era sempre di che temere, finché al mondo restasse qualcosa che amavo. Non si può immaginare il mio odio per questo demone. Quando pensavo a lui, digrignavo i denti, i miei occhi si accendevano, e io avrei voluto poter distruggere quell'essere che con tanta leggerezza avevo creato. Quando ricordavo i suoi delitti e la sua crudeltà, il mio odio e il mio desiderio di vendetta superavano ogni limite. Fino sulla più alta vetta delle Ande mi sarei recato se di là avessi potuto farlo precipitare a valle. Bramavo vederlo ancora per poter sfogare sul suo capo tutto quanto il mio furore e per vendicare la morte di William e di Justine. La nostra era la casa del lutto. La salute di mio padre era rimasta profondamente scossa dall'orrore degli ultimi avvenimenti. Elizabeth era triste e sfiduciata, non traeva più diletto alcuno dalle sue normali occupazioni, e ogni svago le sembrava un sacrilegio verso i morti. Pensava allora che dolore eterno e lacrime fossero il giusto tributo che doveva pagare all'innocenza così oltraggiata e distrutta. Non era più la felice creatura che nella prima giovinezza passeggiava con me sulle rive del lago parlando con entusiasmo dei nostri progetti futuri. Il primo di quei dolori che ci vengono inviati per svezzarci dall'attaccamento alla vita terrena le aveva fatto visita e la sua influenza aveva velato i suoi sorrisi più cari. «Quando penso, mio caro cugino», diceva ella, «alla triste fine di Justin Moritz, il mondo e le sue opere non mi appaiono più quelli di una volta. Prima credevo che tutti i torti e le cattiverie di cui leggevo o sentivo parlare appartenessero a tempi ormai remoti o fossero frutto di fantasia. Tali eventi erano lontani da me, più noti alla ragione che all'immaginazione. Ma ora che il dolore è entrato in casa, gli uomini mi sembrano mostri, assetati l'uno del sangue dell'altro. Tuttavia sono di certo ingiusta. Tutti credevano che quella povera fanciulla fosse colpevole e se avesse commesso il delitto per cui ha dovuto pagare, certo sarebbe stata la più orribile fra le creature. Assassinare per un gioiello il figlio del suo benefattore e amico, il bimbo che aveva allevato dalla nascita e che sembrava amare come se fosse suo. Non potrei consentire la morte di alcun essere umano. Ma avrei certo giudicato una simile creatura inadatta a restare nella società degli uomini. E invece era innocente. Lo so, sento che era innocente. Tu sei del mio stesso parere e ciò mi conferma nella mia persuasione, ahimè, Victor. Chi può trovare una felicità duratura se il falso sa essere tanto simile al vero? Mi sembra di camminare sull'orlo di un precipizio verso il quale fanno ressa migliaia di persone che cercano di spingermi nell'abisso. William e Justine sono stati assassinati e l'autore del delitto è fuggito. Se ne va per il mondo, libero e forse rispettato. Ma anche se fossi condannata al patibolo per quegli stessi crimini, non mi cambierei con un simile mostro. Ascoltai le sue parole con un'angoscia estrema. Nella sostanza, se non nella forma, il vero assassino ero io. Elizabeth lesse sul mio viso il tormento e, prendendomi affettuosamente per una mano, disse: «Mio cugino, carissimo, devi calmarti. Dio sa quanto profondamente mi hanno colpito questi avvenimenti, pure non mi sono lasciata sconvolgere come te. Sul tuo volto c'è un'espressione di disperazione e qualche volta di vendetta che mi fa tremare. Caro Victor, liberati da queste oscure passioni. Ricorda gli amici che ti circondano, che ripongono in te tutte le loro speranze. Abbiamo perso il potere di renderti felice. Finché amiamo, finché siamo sinceri gli uni con gli altri, in questo paese pacifico e bello, il tuo paese natio, possiamo cogliere ogni serena benedizione. Che cosa potrà disturbare la nostra tranquillità?» E non potevano tali parole da parte di colei che consideravo teneramente come il migliore dei doni toccatimi in sorte, non potevano bastare a scacciare il demone che mi stava in agguato nel cuore. Anche mentre mi parlava, mi accostavo a lei come per il terrore che in quell'attimo il distruttore si avvicinasse per portarmela via. Così, né la tenerezza dell'amicizia, né la bellezza della terra o del cielo riuscivano a redimere la mia anima dal dolore. Persino le parole d'amore non avevano effetto. Ero avvolto da una nube che nessuna influenza benefica riusciva a penetrare. Il cervo ferito che trascina nel folto le membra che gli cedono, e là muore, fissando il dardo che l'ha trafitto. Quella era la mia immagine. A volte riuscivo ad affrontare la cupa disperazione che mi sopraffaceva, altre volte le vorticose passioni del mio animo mi spingevano a cercare sollievo dalle mie intollerabili sensazioni nell'esercizio fisico e nel mutamento di luogo. Fu durante uno di questi accessi che lasciai improvvisamente casa mia e, dirigendomi verso le vicine valli alpine, cercai, nella magnificenza e nell'eternità di quegli scenari, di dimenticare me stesso e i miei effimeri dolori umani. Il mio vagabondare mi portò verso la valle di Chamonix. L'avevo visitata spesso durante la fanciullezza. Da allora erano passati 6 anni. Io ero un relitto, ma niente era cambiato in quei paesaggi immutabili e selvaggi. Feci la prima parte del viaggio a cavallo e poi noleggiai un mulo perché era più saldo e meno a rischio di farsi male su quei sentieri sconnessi. Il tempo era bello, era circa la metà di agosto, circa 2 mesi dopo la morte di Justine, quel periodo miserevole a cui facevo risalire tutto il mio dolore. Il peso che mi gravava sul cuore andava visibilmente alleggerendosi man mano che mi addentravo nella forra dell'Arb. Le immense montagne e i precipizi che mi sovrastavano da ogni lato, il boato del fiume che ruggiva tra le rocce, lo scroscio delle cascate all'intorno, tutto parlava di una potenza grande come l'onnipotente, e io smisi di avere paura, di piegarmi davanti a qualunque essere meno possente di colui che aveva creato e dominava gli elementi, qui mostrati nel loro aspetto più straordinario. E quando salii più in alto, la valle assunse un aspetto ancora più meraviglioso e stupefacente. Castelli in rovina affacciati su precipizi di montagne ricoperte di conifere, l'impetuoso fiume Arve e casette che facevano capolino tra gli alberi formavano un insieme di singolare bellezza, accresciuto e reso sublime dalle Alpi possenti, le cui vette e cupole candide e scintillanti torreggiavano sopra ogni cosa come se appartenessero a un altro pianeta, abitazioni di esseri di un'altra razza. Oltrepassai il ponte di Pelissier, dove mi si aprì davanti il burrone formato dal fiume, e cominciai a salire la montagna che lo sovrasta. Di lì a poco entrai nella valle di Chamonix, più spettacolare e splendida, ma meno graziosa e pittoresca di quella di Servaux che avevo appena lasciato. Era cinta da montagne alte e innevate, ma non vidi più castelli in rovina e fertili campi. Immensi ghiacciai scendevano fino alla strada, sentivo il brontolio sordo della valanga che cadeva e distinguevo la scia che si levava al suo passaggio. Il Monte Bianco, il supremo e magnifico Monte Bianco, si innalzava sopra i picchi circostanti e la sua maestosa cupola dominava la valle. Un'intensa sensazione di piacere che non provavo più da tempo mi pervase spesso durante quel viaggio. Una svolta della strada, qualcosa di nuovo che notavo ed improvviso riconoscevo, mi ricordavano i giorni andati e si associavano alla spensierata allegria della fanciullezza. Anche il vento sussurrava con accenti calmanti e la natura materna mi chiedeva di non piangere più. Poi di nuovo quella benigna influenza cessava e mi trovavo nuovamente incatenato al dolore, immerso nella tristezza delle mie riflessioni. Allora spronavo la mia cavalcatura, cercando a quel modo di scordarmi del mondo, delle mie paure e più di tutto di me stesso. Oppure con un gesto più disperato smontavo e mi gettavo nell'erba oppresso dal dolore e dalla disperazione. Alla fine arrivai al villaggio di Chamonix. Ero sfinito, dopo l'estrema fatica fisica e mentale che avevo sostenuto. Per un poco restai alla finestra a guardare i pallidi lampi che danzavano sopra il Monte Bianco e ad ascoltare lo scrosciare tumultuoso dell'Arve che scorreva lì sotto. Questi suoni, riposanti, agirono come una ninna nanna sulle mie sensazioni troppo acute. Quando posai il capo sul cuscino, il sonno mi prese. Lo sentii arrivare e benedissi quel dispensatore di oblio.